parlarmi di potere o mi si rivolta lo stomaco. Anzi parlamene, perché la mia rivolta è anche affrontare ciò che oggi è scomodo. Voltarmi, rivoltarmi nella merda e nel sangue. Complementare al Leviatano e coi suoi scarti che io creo un gigante. Una forma del potere è anche il controllo della creazione, ovvero marketing, controllo di arte, comunicazione. Ma il controllo non è solo diritto d'autore, ma anche l'omologazione, il depotenziamento di ogni potenziale autore. La comunità virtuale le fa entrambe. Ne risultano chiacchiere, paure di complotti. Se hai paura, sì, grande. Esci dalle cosce di angoscia e paranoia. Quando i sentimenti sono prevedibili, ogni potere l'ingoia. Il dualismo tra amante latino ed amante del latino si sbriciola se analizzato da vicino. La questione in ogni caso è creare l'arma più buona. Il concetto di bene sta nella forza di farlo e se farlo funziona. Troppi sentono come un peso ogni differenza. Si affida ad una scienza scritta senza i, come scema o scettro che dà autorevolezza, ma come la sua pronuncia solo in apparenza. La vera scienza sminuzza se stessa, supera il suo nome assieme alla definizione che troppo spesso è perversa. Voglio di più, soglie barcate da voglie, marcate da doglie. In che senso volere poco oggi una virtù? Voglio di più, anzi ogni slogan voglio superarlo, perché sono un uomo e se mi guardo sono gli occhi di Medusa a farlo. Il definito arretere rende pietra nelle crisi un crampo assassino. Nella forza un trampolino, sta un pochino chino su un concetto. La filosofia e l'astrazione che incontriamo necessariamente nel definire il concreto. Ma l'importante è esagerare, come mi ha detto un vecchio metto. Mi chiedo cos'è il cielo, il mio vero limite è il tetto. Ed il caso machiavellico, la morte, Obre dei Grey col suo progetto può evitarne molte, ma non la mortalità. E magari incrementerà negli altri quella paura della morte che egli non ha. Sfidando la sua grande autorità, dà in parte proposte vane. La natura una riserva inesauribile, almeno in quanto a morti e paure umane. Ancora non si sa se la scienza può dare immortalità. Di sicuro la scienza stessa sembra immortale come la curiosità. Il paradiso d'oggi è lo showbiz, ma solo pochi elementi della società. Così gli altri cercano nella carne, nei geni, l'eternità. Chi invece sprofonda nell'altro poi ne esce rinato. Una versione più modesta dell'estasi, ma più complessa dell'enfasi morale, dell'immedesimazione altruistica. Ricostruire e non capire il turista che si fa cittadino della meta turistica. Il nomade è nulla questa distinzione, riuscendo molto spesso a farsi odiare dalle persone di ogni fazione. Ogni testa è nomade, abbandona autore, padre, patria. A volte muore, altre può riterritorializzarsi in un'altra. Io non vedo più cose, vedo linee guide di fuga dal contesto. Contesto chi l'infinito vuole calcolarlo, e dubitando di un'idea incontro Zenone di Elea. Per giungere alla metà di un percorso devo prima giungere alla metà della sua metà, e così via all'infinito. Non ho capito, le passa mio marito. La somma di frazioni esponenziali converge. La metà più la metà della metà sta per creare un'unità. In ogni passo un uomo vince l'infinito. Solo dopo 25 secoli di umanità qualcuno l'ha capito.